Cari amiche e cari amici, benvenuti, Brussellando, Maridì, Radio Alma 101.9, questa sera in edizione speciale perché abbiamo un graditissimo ospite, ospite attesissimo già da un mese anche dal nostro blog, Carlo Verdone. Cari amiche e cari amici, buonasera, bentrovati, Radio Alma, Brussellando, Maridì, questa sera ha il piacere insieme al nostro Georges Durand di intervistare Carlo Verdone a Bruxelles. Carlo, benvenuto. Grazie a voi. So che Bruxelles è una città che ti piace molto, hai avuto modo di girare anche... Beh, ci ho girato un film, sono pazzo di Iris Blonde nel lontano 1996, però poi sono tornato sempre con molto piacere perché l'Istituto Italiano di Cultura spesso proietta dei miei film, li accompagno sempre, quindi accompagnando i film poi incontro sempre il pubblico e quindi negli anni ho stabilito un bel rapporto con tutti quanti. E riesci anche a visitare altre piazze europee oppure Bruxelles in quanto capitale dell'Europa è piazza comunque più viaggiata? Beh no, cerco di farne dove c'è bisogno vado, se c'è bisogno di andare a Madrid vado a Madrid, se c'è bisogno di andare a Parigi vado a Parigi. Qua gli inviti sono, però sono inviti speciali perché arrivano da amici che stimo e che voglio bene, quindi è una piazza preferenziale. Quest'ultimo tuo film, è stato difficile interpretare un prete, insomma, dopo tante figure comunque che ricordiamo con piacere, vestire il ruolo di questo padre Carlo. Raccontaci. Non è stato particolarmente difficile, quello che era difficile era trovare un senso della misura giusto, perché interpretare il ruolo di un sacerdote in crisi con la fede, farlo arrivare a Roma e farlo rientrare in crisi perché si trova una famiglia disastrata, parliamo di una commedia, però un sacerdote deve sempre nello schema essere molto equilibrato, quindi io credo che questo equilibrio glielo ha dato un grande senso della misura. La comicità c'è, ma non parte espressamente da me, ma parte spesso da un'azione dei miei familiari o da altri personaggi di contorno con delle reazioni mie, quindi non è cucita, le gag non sono cucite sul prete, sul sacerdote, ma sugli altri. Però è un film anche che tocca un tema molto importante come quello del dissesto della famiglia, del mondo d'oggi. Insomma, è una commedia che ha un suo valore, direi, anche indagativo su tanti aspetti del nucleo familiare molto importante. Quindi l'ho fatto con molta motivazione, volevo che fosse uno dei miei film migliori dal punto di vista della scrittura e della regia. Mi sembra che tutto sommato ci sia riuscito. Assolutamente ci è riuscito benissimo, infatti un film che fa ridere, però poi ci interroghiamo su tutta una serie di cose che caratterizzano la nostra società. Ma siamo proprio davvero così? Forse siamo anche peggio, siamo molto confusi in questo momento, c'è una confusione generale è saltato un po' un'etica che una volta c'era, è saltato un po' una dignità che una volta c'era, e una volta c'erano queste cose, c'erano delle regole. Adesso è un mondo impazzito sull'ora dell'esaurimento nervoso, se non già nell'esaurimento nervoso. E alla fine poi questo prete capisce che forse è meglio andare, ritornare in Africa dove i problemi sono seri, veri, piuttosto che quelli nevrastenici di una società dissesta, dissennata anche. E come mai l'esigenza di questo film? Da che cosa nasce questa sua... Dalla maturità, dalla mia maturità. Questo è un film della maturità, soltanto in questo momento potevo fare un film del genere, soltanto in questo momento potevo interpretare un sacerdote fatto bene. Se avessi fatto, non sarei stato bravo se avessi fatto 15 anni fa, non avrebbe avuto nemmeno senso, perché il senso è prendere il sacerdote e farlo diventare come un monitor di un disastro, di un mosaico che implode praticamente su se stesso, della famiglia. 30 anni di carriera che ha compiuto proprio quest'anno. Se c'è un ricordo magari che vuole condividere con i nostri ascoltatori a cui lei è particolarmente legato. Ma i ricordi ne avrei veramente non tanti, tantissimi. Però ve ne dico uno. La prima volta che sono stato invitato qua, io non mi ricordo più neanche per quale film. Forse non me lo ricordo, però venni forse negli anni 80 e l'Istituto di Cultura mi fece la proiezione, poi andammo anche a Charleroi, in un cinema, a incontrare il pubblico. Il pubblico non c'era, il pubblico erano 10 persone. Allora dissi, vabbè, è un pedaggio che bisogna pagare piano piano. Però la differenza è che ieri sono andato in sala, c'erano 500 persone, c'era gente in piedi. Quindi, ecco, questo è divertente, che tu inizi e non sei conosciuto. Però non mi sono depresso, no. Perché, vabbè, no, a inizio carriera può succedere. Beh, negli anni 80 non è all'inizio carriera, è già una bella carriera, però forse all'inizio in Belgio era poco conosciuto, ancora cominciava all'inizio. No, mi piace molto l'idea che questo film venga dalla maturità, nel senso che è un film che non avrebbe avuto senso 15 anni fa, senso oggi. Allora, se posso approfittare, qui posso anche spendere, perché mi interessa la persona dietro il personaggio, mi interessa l'attore dietro quello che c'è sullo schermo. Qual è la reazione che ha Carlo di fronte alla complessità di questa società, di fronte a ciò che non vediamo più della società, la crisi, la follia, forse falsi valori, non lo so. Che cosa riprende Carlo di questo film dopo che l'ha fatto? Io mi stupisco che la gente non si indigna più, non c'è più il senso né di stupore per le cose belle, per le cose assurde, ma soprattutto non si indignano più, e c'è un'anestesia totale che è preoccupante. Quello mi preoccupa molto, mi preoccupa, quindi per quello dobbiamo stare dietro molto ai nostri figli, per farli crescere in maniera sana, forte, con un senso di critica e autocritica molto importante. Però se questi sono i tempi di oggi è molto duro, però io sono fiducioso nelle nuove generazioni affinché possano poi dare. Alla fine fanno scatto di ridi, però queste nuove generazioni l'hanno pure un attimo coltivato, l'hanno fatto studiare in un certo modo, l'hanno preparato. Ma l'Italia è un paese per vecchi, è un paese che non offre molte chance. E questo è triste dirlo, perché mi dispiace molto, però è la verità. Oggi leggere una pagina del web che sono 2 milioni di ragazzi senza lavoro, senza una lira, che vivono ancora dai genitori fino a 28 anni, è una notizia tragica, sì, è frutto anche dei tempi, però porca miseria, vuol dire proprio che le prospettive lavorative si stanno proprio molto molto restringendo e c'è quasi uno scoraggiamento, quindi è in atto una fase di depressione proprio nei giovani. Dovremmo fare qualche cosa, dovrebbero fare qualche cosa quindi. I giovani secondo me si stanno muovendo, perché ma Simone, io ho fiducia in loro, non ho fiducia nelle vecchie generazioni, io le nuove ce l'ho. Però a Bruxelles c'è stato recentemente un concorso per entrare in commissione e il numero più alto in senso assoluto di partecipanti erano italiani, 15%, più di tutti gli altri. Quindi gli italiani, i giovani italiani vogliono muoversi, si muovono e si vede, perché a Bruxelles appunto partecipano, sì, certo. Scappano, certo, ma si vogliono muovere poi non solo a Bruxelles ma anche nel mondo, perché vedo anche molti figli di miei amici che i figli non gliene importa nulla, chi va in Australia, chi va in Canada, chi va in America, chi va dove può studiare, dove può fare ricerca, sono soprattutto ricercatori, che in Italia non c'è la possibilità. E poi la cosa che ci dispiace più di tutti è quella di vedere che le più grandi scoperte dal punto di vista medico, biologico, farmaceutico, sono tutti italiani. Tutta gente che magari è andata via a calci nel sedere perché non c'è, però poi si sono fatti valere. Questo dispiace. Io ho un'ultima domanda, però ti se posso. L'ultima domanda è questa: che rapporto ha Carlo Verdone con il divismo? Con il divismo. Ci sono dei divi in giro per l'Italia, ce ne sono parecchi. Che cosa significa il divismo, oppure che rapporto proprio ha Carlo con il divismo? Esiste, è un problema di qualcuno che si sente. Io non ho mai vissuto da protagonista, ho sempre vissuto da fan. Quindi per me i grandi divi Oggi ce ne sono un po' di più, però quando ero un po' più giovane, io ho avuto una venerazione per alcuni attori, per alcuni registi, per alcuni musicisti, però io non... Cioè io ringrazio tutte queste persone perché mi hanno dato non solo cultura, ma mi hanno dato anche molta passione, mi hanno anche allietato l'adolescenza, il periodo universitario, la musica per esempio è stata fondamentale. Casa mia, se uno viene a casa mia... C'è la batteria. Ma no, c'è, sì, c'è più la batteria, c'è più d'aria, c'è più... Ma sembra più la casa di uno storico della musica rock, della vera musica rock, piuttosto che di un attore. Sono tutti fotografie con autografi che va da Pete Townsend, da Led Zeppelin, a Yuhu, c'è tutti, Pink Floyd, persone tutte conosciute veramente, con le quali poi ho anche la famiglia di Hendrix, Jimi Hendrix, anche dei memorabili di Hendrix, no, ma sono collezionista, David Bowie, Santana, David Silver, sembra la casa di uno studioso di musica. Un'ultimissima domanda, che cosa bolle in pentola? Cosa c'è? Un nuovo film corale, di impronta corale che spero di iniziare a metà ottobre, spero tanto. Allora, in bocca al lupo. Che credi? Di Radio Alma Bussellando, ringrazio Carlo Verdone. Ringrazio io a voi, un abbraccio a tutti e a presto. A prestissimo. Ciao.